24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Eccoci qui, puntuali, ormai vi siete abituati al nuovo orario, cari ascoltatori, noi tantissimo, sono le 6:32 minuti, staremo insieme fino alle 9, come al solito, con il nostro Alessandro Longoni là in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Vi preannuncio che oggi più avanti con gli ospiti politici tratteremo vari temi, avremo Renato Brunetta alle 8:15, poi parleremo di che? Ah sì, di Vendola, i matrimoni omosessuali, Vendola che ha detto voglio sposare il mio compagno scatenando putiferio politico. E di questo parleremo alle 8:30 invece. Però io voglio già di aprire il nostro bel bar di Radio 24, dove già si affollano delle persone. Vedo qui che già entrano i primi, clienti non si può dire, perché qua è tutto gratis. Ma emetto lo scontrino, Carlo Rienzi, buongiorno, emetto lo scontrino, anche se è gratis. Carlo Rienzi è il presidente del Codacons, è avvocato, poi se no vada a Befera sicuro, mi denuncia se non emetto lo scontrino. Sul blog mio poi c'è un apposito settore che dice... segnala chi non ti dà lo scontrino. Eccolo lì, la gogna. State attenti, lo so. Poi Carlo Rienzi è avvocato, eccolo qua. Saluto anche Stefano Feltri del Fatto Quotidiano. Buongiorno Stefano, ecco, ben svegliato. Buongiorno a voi. Ben svegliato. E poi, anche se il fuso orario è lo stesso, abbiamo anche un nostro ascoltatore dalla Svizzera, ascoltatore, nostro cliente dalla Svizzera, si chiama Paolo Attivissimo. Buongiorno Paolo, eccoci qua. Buongiorno a voi. E come devo chiamarti, se no disinformatico, lo trovate così, sì. su Twitter, è molto molto molto pronto, molto a fare tutte le interazioni possibili, è una persona molto molto attiva, come dice il nome, non voglio giocare su questo. Dove sei, a Lugano? Sì. C'è già gente che sta facendo la fila per fare benzina? Ma da tempo. Quanto costa la benzina? Ma ormai costa abbastanza, però non è che c'è un risparmio enorme, o sì ancora? Ma al distributore sotto casa intorno al 30% rispetto ai prezzi italiani. Ah, ecco, allora conviene se sei vicino al confine, ovviamente. Però sì. Oltre a voi vedo c'è un capannello di gente, ci sono qua persone fuori, capannello di gente attorno a una signora, una bella signora che chiedono vorrei sentire che cosa stanno chiedendo. Non rispondo a nessuna domanda, non ho intenzione di rilasciare nessun tipo di dichiarazione. Ma chi è? Ma perché non rispondi? Un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Ah, il caffè volentieri a tutti quanti. Carlo Rienzi l'ha riconosciuta, chi è? È Nicole Minetti, consigliere della Regione Lombardia, membro della Commissione Cultura del Consiglio della Regione Lombardia e membro della Commissione Sanità della Regione Lombardia. Che è una bella donna. Sì, è una gran bella donna, su questo non c'è dubbio. Che ha detto non mi dimetto più. Ecco. Le dà fastidio questa perché adesso c'è la questione, lo fa per il vitalizio, non mi dimetto più, aveva detto mi dimetto sicuramente entro ottobre, non prenderò il vitalizio della Regione Lombardia, adesso ha detto credo negli ideali di Silvio Berlusconi e quindi... Ma pare che persone politiche che promettono e non mantengono ne abbiamo aiuto, no? Mi pare che abbiamo avuto... chi gli avevano fatto le case di nascosto, quell'altro che ha detto ma se verrà approvato un mio coinvolgimento, non è che che fastidio mi può dare. Poi per il resto sono state delle elezioni ultimamente, le ultime elezioni, forse non vi ricordate, ma praticamente hanno preso un sacco di gente che non faceva politica perché dovevano riempire le liste e si sono trovate elette talmente tante quelle persone, a parte le scelte fatte con i listini, no? Sì, sì. Chissà se la gente lo sa bene cos'era il listino. Sì, si mette un listino e vengono nominati, sono nominati, no? Vengono eletti il primo, il secondo, il terzo. Questi devono uscire perché ho deciso io che dovrebbe servire per dire... metto il grande esperto di organizzazione del partito, il grande esperto di comunicazione, cioè avere la certezza che alcune persone che servono veramente al partito vengano poi elette. In realtà poi insomma, c'è un'amica, fidanzata, fidanzato, sì. No, no, Vabbè, d'altronde la legge elettorale è quella. Io non lo so, tra l'altro ho sfogliato oggi il Fatto Quotidiano, tra poco stanno cominciando ad arrivare i giornali. Stefano, sul Fatto Quotidiano pensavo che ci fosse più rilievo per questa notizia. L'avete relegata Nicole Minetti in un riquadro, così a pagina 5, non lo so, mai non... Come dire, sta venendo un termine che non ripeto, però insomma la notizia non tira più, ecco, diciamo, su... Ma infatti, mi hanno fatto bene. No, ma sai, la ragazza è sembrata un po' confusa fin dall'inizio su questa vicenda. A un certo punto ha dato due interviste opposte, due settimanali, in cui uno diceva che si dimetteva e nell'altro no. Diciamo che la cosa più curiosa è che lei di questa scelta di rimanere lì agli ideali di Silvio Berlusconi, cosa che nessuno capisce bene che cosa significhi questa... Ma sì, ma è un po' secondo me è una sconfessione, visto che il numero uno del partito, Alfano, aveva detto si deve dimettere, no? Una famosa intervista subito lunedì, è un po' come dire decido io, cioè attenzione che non mi faccio comandare da chi che sia. No, ma non c'è dubbio, ma tra l'altro la cosa, diciamo, che io trovo legittima è che lei non si dimetta, perché d'altra parte se dovesse con lo stesso criterio dovrebbe dimettersi, penso, mezzo PDL in Parlamento, quindi... Giustamente lei dice perché. Addirittura perché il PD, cioè perché sono nominati? Un po' tutti sono nominati. Beh, sì, per la verità. Un po' tutti sono nominati e diciamo una buona parte del gruppo del PDL alla Camera o al Senato ha più o meno le stesse competenze della Minetti, quindi insomma. Per una questione di competenze. Su questo, perché no, poi veniamo a cose che mi interessano di più, sulla questione, per esempio, la tassa sulle bibite. Tra un attimo. Però prima vorrei. Paolo Attivissimo, su questo. Che puoi dire? Che da vista dalla Svizzera, ma quanto guadagna? Esiste il consigliere regionale, la figura del consigliere regionale che magari guadagna 10.000-12.000 euro al mese in Svizzera, no? Beh, la struttura amministrativa della Confederazione è parecchio diversa da quella italiana, sì, è molto sì. Più regionale, e gli stipendi sono fra l'altro non paragonabili, perché il costo della vita e soprattutto la scelta sociale della Svizzera è parecchio diversa, per cui diciamo che l'impostazione di base è che gli stipendi individuali sono alti, perché l'intento generale delle scelte degli stipendi è di consentire a ciascuna famiglia di vivere con uno stipendio. Con uno stipendio, quello della politica. Ah, quindi guadagnano comunque. Quanto guadagnano più o meno, se lo sai? Ah, non lo so, perché le varie cariche hanno prezzi. Onorari diversi, e poi ci sono tantissime considerazioni per cui non posso dare delle cifre precise. Ma si può arrivare fino a 10.000-12.000 euro, ovviamente in corrispettivo ai franchi, quelle sì, cifre sì, lì? Sì, questo è abbastanza normale per le mansioni di dirigenza. Insomma, quindi diciamo non ci si scandalizza magari per gli stipendi, ma magari per altro. Carlo... No, infatti, diciamo che la differenza è che uno non dà fastidio vedere degli stipendi alti se poi in cambio ha un servizio. Ah beh, quello sì, ma certo, se uno vede gli stipendi alti ma in cambio ottiene qualcosa, allora hanno un senso. Carlo Rienzi, intanto se vuole le posso anche offrire una Coca-Cola, tanto ormai pare che sia saltata questa cosa della tassa sulle bibite. Oggi arriva il decretone sulla sanità e questa tassa, pare che Renato Balduzzo, il ministro della sanità, debba un po'... abbassare le pretese, pretende solo di vietare ora le pubblicità sul gioco d'azzardo, ma è saltata, ormai è quasi certo, è saltata l'idea di questa tassa. Lei come la vedeva, da avvocato, da Codacons e quindi rappresentante dei consumatori? A proposito, un consigliere federale svizzero guadagna 444.718 franchi all'anno. Chi? Quanto guadagna chi? Un consigliere cantonale svizzero, federale svizzero. Quanto guadagna? 400? 444.718 franchi all'anno. Ma è tantissimo. È molto? 444.000 franchi, non so, quant'è il corrispettivo? Svizzero non me lo ricordo. Paolo, Attivissimo, ci riesce a fare il calcolo di 444.000 franchi in euro, che magari capiamo. È parecchio, insomma. Poi, sì, sono circa 370.000 euro. 370.000 euro, accidenti. 370.000 euro un consigliere cantonale. Come fa a saperlo, Rienzi? L'ho trovato un attimo. Cioè, si appassiona ai consiglieri cantonali svizzeri, non so. Che cosa fa? L'ha chiesto. Ho capito. Ma lei è troppo attivo, cioè, ho capito, in 3 secondi. Adesso le chiedo qual è la capitale dell'Uzbekistan, me lo dice, vedi, sarà lì con l'iPad, no? No, comunque, Rienzi, 370.000 euro è tanto per un consigliere cantonale, però ci ha detto Paolo Attivissimo, fa quello di professione, si vive con quello stipendio in tutta la famiglia e quindi è giusto pagarlo così tanto. Ma invece questa storia della tassa, Rienzi, la tassa sulle bibite. Sulle bibite. Guarda, noi diciamo questo, che non crediamo che nessun giovanotto rinuncia alla Coca-Cola perché costa 3 centesimi in più. È vero che l'aumento del prezzo dei beni, diciamo, non di lusso, comunque di consumo, è pericoloso, diminuisce il consumo. Però il Ministro della Salute dovrebbe fare qualche cosa che riguarda la salute, non alle finanze, nel senso che dovrebbe fare delle campagne nelle scuole per spiegare che fanno male queste bibite, che sono il junk food, cioè le merendine, tutti questi cibi, eccetera, eccetera. Ma spendendo anche pochissimo, perché poi si potrebbe inserire anche in qualche materia e così via. Allora, così si potrebbe ottenere un risultato, come dice lui, salutista, ma non con i 3 centesimi. I 3 centesimi, tanto che succede? Il fabbricante le scarica a valle sul consumatore. Cioè, ha paura che poi la bibita costa, la lattina viene fatta pagare 3 centesimi in più o più o meno, questo al consumatore finale? Poi arrotondano, no, non saranno 3 centesimi, saranno 10 centesimi. Ah, ecco. È ovvio, no? Come sempre in Italia, si è arrotondato pure l'euro. Ci ha messo l'euro e sono raddoppiati i prezzi. È cambiata la lira in euro, che è successo? Che un supplì, mi ricordo, il giorno dopo, io andai qui da un bar, non lo posso nominare, cioè, perché siamo in un bar, poi concorrente, bar, e la sera prima costava 500 in un bar, 800 in un altro, il supplì. E poi? E il giorno dopo costava un euro. Un euro. Ma io mi ricordo quando si mangiava a Milano con 30.000 lire e mo 30 euro, 40 euro. Non era 2.000 lire, cioè era più del doppio. Nel giro di poco. Il giorno dopo. È così. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Poi sono arrivati i giornali. Attenzione, perché sui giornali ci sono varie cose: l'euro, la Francia. Ho già visto i titoli, ma c'è una cosa sul Corriere della Sera che vi preannuncio e che è questa. Attenzione, perché è una patata bollente sul Corriere della Sera. I verbali di Gotti Tedeschi, che è l'ex presidente dello IOR, il quale dice così: Orsi, cioè l'amministratore delegato di Finmeccanica, mi parlò di consulenze alla moglie del ministro all'economia Grilli. Insomma, è un qualcosa che ha solo il Corriere della Sera e che promette di creare probabilmente un po' di scalpore. Tra poco. 24 mattino. Allora, eccoci. Se volete mandare i vostri messaggi 349-238-6666, siamo qui al nostro bar di Radio 24. Sono arrivati i giornali. C'è con noi Carlo Rienzi, il presidente del Codacons. C'è con noi Stefano Feltri del Fatto Quotidiano. E Paolo Attivissimo, disinformatico, così lo trovate su Twitter. Lavora anche alla Radio Svizzera Italiana, ci parla da Lugano. Allora, ci sono vari titoli: intesa Italia-Francia per l'euro per il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore invece fa il piano di fine legislatura, tutte le misure in 4 mesi, insomma Monti Hollande su Repubblica. Ma c'è questa notizia sul Corriere, i verbali di Gotti Tedeschi, il caso Finmeccanica. Orsi, l'amministratore delegato, mi parlò di consulenze alla moglie del ministro all'economia Vittorio Grilli, una rivelazione, racconta Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Vabbè, ma sono cose un po' pesanti, non so, Stefano Feltri, io so già che magari adesso sul Fatto Quotidiano vi butterete, su questa cosa, ma che è sta cosa? Ma noi questa notizia l'avevamo già data un paio di mesi fa, era una voce che circolava, se non mi ricordo quale livello di riassunti di intercettazioni. Qua sarebbe proprio un'intercettazione su un interrogatorio, stralci, insomma, come si fa lì un po' all'italiana, no? È la classica soffiata di qualcuno che è finita a Fiorenza Sarzanina, pubblicata giustamente sul Corriere della Sera. Sì, no, ma dico appunto, noi avevamo già scritto qualche tempo fa è una cosa che girava e che sarebbe, diciamo, una specie di tangente mascherata, secondo quello che si capisce, cioè un pagamento alla moglie per pagare poi in realtà il ministro, però ovviamente tutto da dimostrare, nel dice Gotti tedeschi, ma già mettere questa notizia in prima pagina del Corriere alla vigilia di momenti importanti, ci sarà. Dal punto di vista di Grilli, che adesso è diventato ministro, una fonte di imbarazzo, anche perché tra l'altro credo che sia la ex moglie, quindi personale, quindi sicuramente che un giornale come il Corriere, che finora è sempre stato molto rispettoso del governo, a parte gli editoriali di Giavazzi, è un attacco abbastanza pesante. È un attacco abbastanza pesante, effettivamente. Ma staremo a vedere, non vogliamo appesantire troppo, sennò poi dobbiamo berci 4 caffè subito al mattino. Paolo Attivissimo, noi ti abbiamo chiamato anche per... Allora, Paolo Attivissimo, dovete sapere, è molto interessato a tutto quello che è la tecnologia, eccetera. È uscita ieri una notizia che ci ha un po' inquietato, perché tra poco si avvicina l'11 settembre. Questa la vorrei far sentire agli ascoltatori anche. Carlo Rienzi, senta bene, perché l'11 settembre si avvicina e riaffiorano ovviamente le teorie. Ieri un'agenzia che è arrivata in redazione, non so dove l'abbiamo scovata, diceva praticamente questo: eccolo lì, trovate le prove che l'11 settembre in pratica se lo sono fatto da solo gli americani, un complottone, no? Le solite cose, Paolo, che vengono spacciate. Che c'è di vero in questo? Ci illumini su questo, che è successo? Ma la notizia in realtà è una non notizia, nel senso che è la copia e incolla di una notizia data 3 anni fa dalla stessa fonte, un sito che si chiama agenziastampaitalia.it, che in realtà, nonostante il nome, è una diramazione della radio iraniana. La radio iraniana? Che... Sì, beh, lo dicono anche abbastanza chiaramente nel loro logo, in fianco alle notizie. E pubblicano appunto una notizia vecchia di 3 anni fa e non si sono neanche presi la briga di aggiornarla, perché i personaggi citati continuano ad avere gli stessi anni, sono evidentemente immortali e oltretutto dal punto di vista scientifico la presunta rivista che avrebbe pubblicato questa notizia sensazionale viene presentata come una rivista di grandissimo spessore, una delle più accreditate negli Stati Uniti. Beh, basti dire che ha pubblicato dal 2008 ad oggi 4 numeri. Una rivista scientifica proprio con molto seguito e tante. Vabbè, li scrivono piano, li vogliono fare bene, forse, non lo so. Vabbè, ma vediamo. Carlo Rienzi, lei che è sempre un po' sospettoso, diciamo, se mi passa questa. Ha mai creduto che l'11 settembre fosse una bufala? O lo crede veramente? No, non lo credo. Questo almeno no. Non lo credo, e credo che i giornali si dovrebbero occupare pure delle bufale che danno loro, come ieri quando hanno detto che al funerale di Martini c'erano 15.000 persone traboccanti in piazza. E quante ce n'erano? Perché? Io ero lì seduto al bar di fronte alla chiesa, ci saranno state 1.000-1.500 persone. Vabbè, adesso, ma lei cos'è, il riverente? Cioè, mentre c'erano i funerali del cardinale Martini, lei seduto al bar di fronte. No, ma sai qual è il problema? Perché i giornali, siccome hanno annunciato da giorni che ci sarebbe stato. Addirittura il tassinaro mi dice: no, non si può andare perché è tutto bloccato, hanno detto che oggi è tutto bloccato, cioè, adesso non c'entra niente Martini, per carità, una grandissima figura, bellissima, tra l'altro non amato dalla Chiesa, quindi può essere pure anche una ragione su questo scarso affluenza, ma perché devono poi, per non dire che hanno sbagliato le previsioni, dire una balla così clamorosa? No, non era vero. Cioè, sta dicendo che i giornali fanno quello che per non fare brutte figure. Raccontiamo un po' di fregnacce. Un po' di balle. E addirittura, ma è così, che devo fare? Stefano, qua devi difendere i giornali, adesso non sulla questione di Martini che se ne frega, però cioè, Carlo Rienzi è sempre combattivo. Io pensavo fosse combattivo sulla benzina, le tasse, consumatore, ma anche i giornali ci metto in mezzo, Stefano. Però effettivamente credo che solo in Italia le piazze siano così grandi, a leggere i giornali sono sempre piene di decine di migliaia di persone che non... oggettivamente difficile. Vabbè, ma è la solita questione. Poi a Milano non c'ero, però. No. Invece Rienzi era lì al bar, di fronte a Piazza del Duomo, e si è visto questa scena. Ed erano 1.500, non 15.000. Sì, 2.000 saranno stati. Ma io ieri ho letto, folla traboccante nella piazza. Dico, ma dove traboccava questa gente? Vabbè, sono i misteri della... dei media. A proposito di benzina, c'è una promozione, vedo qui sull'ultima pagina del Corriere della Sera. Sì, certo. Cioè, non qual la posso dire, no, io la dico io, l'S lunga, ma lei è famosa. Cioè, e vabbè, che cosa le dà fastidio questa cosa? No, perché noi abbiamo... Cioè, fai la spesa all'S lunga come fai la spesa d'altrove e ti regalano un po' di benzina. No, noi abbiamo i grilli, dico, siccome tu sei l'azionista unico dell'Eni, parla con Scaroni e di continuare questa promozione, perché hanno dimostrato quest'estate, è stata una cosa bellissima, che non è vero che il prezzo deve essere quello, e io so anche perché i nostri esperti lo stanno studiando, ma che si può pagare di meno la benzina. Nessuno ci crede che hanno fatto beneficenza i petrolieri ad abbassare il prezzo in quel modo. Allora, perché non deve proseguire questa promozione? Beh, uno fa una promozione perché si immagina che ne vende di più e quindi fa più margine, no? Forse voi non sapete come è falso il prezzo del petrolio, ma ve lo spiegherò in un'altra occasione. In un'altra occasione che qua al bar, che è sempre aperto, ma sta quasi per chiudere. Che devo dire? No, niente, vi ringrazio, perché ovviamente il caffè gratis per tutti, come dice Nicole Minetti, che non risponde alle domande, a meno al capannello di persone, ma caffè gratis a tutti. Grazie a Carlo Rienzi, presidente del Codacons, lo ritroveremo presto, così come Stefano Feltri, Il Fatto Quotidiano, e Paolo Attivissimo, Disinformatico, così lo trovate su Twitter. Invece trovate noi @24 Mattino, così su Twitter, oppure Alino Milan, sono io. Sì, mi hanno detto, vogliamo riprovarci, perché sono passati 3 giorni, è vero, io ancora non ho capito una cosa. E gliel'abbiamo chiesto direttamente all'ex presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, notabile della DC, una persona molto importante, ancora influente. Perché Ciriaco De Mita ancora la scorta, o meglio la tutela, ce lo vuole dire, presidente? Perché ancora la tutela, la scorta pagata da noi? Parla come se fosse il pubblico ministero. Questo tono mi è sgradevole, per cui la saluto. Ci ha salutato così. E vabbè, ce ne faremo una ragione. Andiamo a ascoltare il giornale radio e poi alle 7:20 rientreremo con la lettura dei giornali. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa, qua ricetta caccia cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Non rispondo a nessuna domanda, non ho intenzione di rilasciare nessun tipo di dichiarazione. Fine. Ma perché non rispondo? Un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa, qua ricetta caccia cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. @24 Mattino, l'Italia si desta. Eccoci qua, siamo sempre in diretta alle 7:20 minuti, sempre in diretta perché ormai l'avete capito, iniziamo alle 6:30 e andiamo avanti fino alle 9. E come di consueto questo è lo spazio di lettura dei giornali. Vi ricordo anche che potete scriverci al 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Siamo su Twitter, @24mattino, @AlinoMilan sono io, potete diventare followers e quindi ci iscriveremo, ci seguiremo a vicenda. Oggi avremo Renato Brunetta alle 8:15, tra un'ora scarsa, per parlare di attualità politica, e poi parleremo della vicenda Niki Vendola, che dice voglio sposarmi col mio compagno, e questo ovviamente scatena il dibattito ancora sul tema dell'unione omosessuale e soprattutto delle alleanze politiche, perché certo dire questa cosa in vista di una futura alleanza col Partito Democratico per il leader di SEL non è una cosa da poco e non è stata detta ovviamente a caso. Ci buttiamo nella lettura dei giornali, allora eccoci qua, i quotidiani in edicola. È mercoledì 5 settembre, uno sguardo ai titoli intanto. Il Sole 24 Ore apre con il piano di fine legislatura, ecco tutte le misure in 4 mesi. Il cronoprogramma degli ultimi scampoli della legislatura per quel che riguarda il governo tecnico, ovviamente. Per il Corriere della Sera, intesa Italia-Francia per l'euro. Repubblica, Monti Hollande, ora più lavoro. La Stampa, caos primarie nel PD, cresce l'onda anti-Renzi.

messi sotto attacco. In realtà il grande imbroglio è che gli stati hanno certamente delle responsabilità, ma relativamente minori rispetto a quelle che ha l'Europa. Vede, sono anche fortunato, ieri la Banca d'Italia è uscita con un'analisi di 350 pagine in cui si dimostra esattamente, scientificamente, tutto questo. Noi ci meritiamo, dice la Banca d'Italia, ma io l'ho detto nel mio libro, 200, uno spread a 200. 200, vuol dire che gli altri 300-350 punti sono legati alle miopie, all'impotenza europea, all'egoismo tedesco, vale a dire al fatto che i mercati non si fidano dell'euro, non si fidano dell'Italia. Dopodiché ovviamente c'è anche una componente italiana dentro questo non fidarsi, però questa Banca d'Italia dice 200. Ecco, queste cose sono contenute nel libro che raccoglie tutte le mie riflessioni di questo ultimo anno, sì. E io questo lo dicevo, forse lei le ha già lette, alcuni mesi fa. Sì, però onorevole Brunetta, molti invece dicono che lo spread, al di là adesso dell'analisi della Banca d'Italia, che è molto importante, lo spread italiano è anche legato al fatto che, mi riferisco al fatto, quando voi eravate al governo non sono state fatte le riforme necessarie, non sei stata... Questi sono luoghi, questi sono luoghi comuni. Perché cito dei comuni? Numeri, cito dei numeri. Dal 2008 al 2013 il governo Berlusconi ha fatto manovre finanziarie per 265 miliardi di euro, il governo Monti ne ha fatte per 60, il totale fa 325. Ecco, questo è il quadro della stabilizzazione finanziaria realizzata dall'Italia che porterà il pareggio di bilancio al 2013. Dentro questi 265 miliardi di euro, certificati anche se dalla Banca d'Italia e dalla ragioneria, ci sono appunto tagli, riforme, tagli della spesa pubblica, riforme delle pensioni che aveva fatto il governo Berlusconi, riforma della pubblica amministrazione e così via. Dire semplicemente non avete fatto le riforme è una stupidaggine che purtroppo è diventata un luogo comune. Faccio un altro esempio, il governo precedente aveva fatto una doppia riforma delle pensioni che avevano portato alla stabilizzazione della spesa e alla famosa, come dire, assorbimento della gobba di spesa pubblica che era collocata tra il 2025 e il 2030. La Fornero, la collega Fornero, ha fatto la riforma dell'ultimo pezzo delle pensioni, vale a dire quello delle pensioni di anzianità, esagerando un po', procurando l'effetto degli esodati. Però, per cui adesso, se si vuole risolvere il problema degli esodati, molto probabilmente la spesa che ne deriverebbe sarebbe superiore. E questo per l'analisi, però la questione, non so, Italia la spesa, mi viene in mente l'Italia la spesa che il governo Monti ha fatto con la spending review, anche se mancano tutti i decreti attuativi, l'abbattimento delle tasse ancora, non ha fatto, vabbè, certo, no, ma io mi si riferisco l'abbattimento delle tasse da tanti anni promesse, cioè queste cose forse sono state anche un elemento di punizione da parte forse lei non ricorda esattamente. Allora, con il governo Berlusconi la pressione fiscale era rimasta, giustamente come lei dice, costante, sì, con qualche decimale in aumento, certamente non in riduzione. Abbiamo anche, come dire, incrociato la recessione del 2008-2009, del 2009-2010. E con il governo Monti la pressione fiscale è aumentata di 3 punti in nove mesi. Allora, noi, sangue, sudore e lacrime, abbiamo mantenuto la pressione fiscale ferma e lei può criticare dicendo non l'avete diminuita. Benissimo, in un momento di recessione, cosa che è alquanto difficile ridurre la pressione fiscale in recessione. Bene, in recessione il presidente Monti l'ha aumentata di quasi 3 punti. Però non ha mai promesso di diminuirla. Non aveva mai promesso di diminuirla. Anzi, ha sempre detto purtroppo bisogna noi pagare. Noi abbiamo cominciato a governare nel 2008 facendo una campagna elettorale quando, come dire, la crisi non si era ancora manifestata, anche se c'erano dei segnali. E lei può giustamente criticare un partito o una coalizione che fa una campagna elettorale del 2008, però pensare di prevedere tutto quello che sarebbe successo dal 2008 in poi forse non è possibile. Senta, le chiedo questo, che ne pensa della Merkel che dice i mercati non sono al servizio di, non aiutano i popoli, è tornata la compagna Merkel degli anni, è una sconfessione del liberismo oppure... Sono molto preoccupato di queste dichiarazioni. Perché? Con una semplice ragione, che se questa è la base culturale della cancelliera Merkel, che magari può anche piacermi in questa fase, ma se queste sono le sue oscillazioni tecnico-culturali, mi preoccupo molto, perché Angela Merkel è anche quella dei compiti a casa, Angela Merkel è anche quella che accetta il giudizio degli spread sui singoli stati e dice colpa vostra, noi non metteremo un euro, laddove invece l'analisi, come abbiamo visto, è più complessa. Ecco, se questa è la base culturale della cancelliera Merkel, magari dettata da preoccupazioni elettorali, ecco, sono preoccupato non tanto per questo ultimo giudizio, sul quale, come dire, in qualche maniera convergo, anche se non in maniera così superficiale, ma sono preoccupato per i giudizi precedenti. Evidentemente la signora Merkel oscilla molto ed è molto sensibile al suo elettorato, e devo dire questo non è il miglior viatico per avere una leadership in Europa. Senta, se non ha già letto i giornali, oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Giulio Tremonti che dice, io lo dico da 20 anni quello che ha detto la Merkel, cioè la Merkel è diventata tremontiana in realtà. E Tremonti, tra l'altro, poi vabbè, le chiedo anche, ha fatto un giudizio abbastanza duro nei confronti del Popolo della Libertà, ma tra poco ci arriviamo. Prima intanto, che ne pensa di Tremonti che dice, c'è la frattura in atto, cioè Tremonti fa parte secondo lei ormai del PDL? Ma vede, io non lo vedo più da tanto tempo, non lo vedo più neanche alla Camera da tanto tempo, quindi... L'accusa di assenteismo. Da quando, no, guardi, non accuso nessuno, dico solo che non lo vedo più da tanto tempo, né alla Camera né fuori. E con questo vorrei chiudere la mia valutazione... Su Tremonti. Però allora mi fa, perché Tremonti ha dato un giudizio su un piano che è importante, che lei nel libro anche cita, vale a dire la strategia di alienazione e valorizzazione del capitale pubblico improduttivo per liberare l'economia italiana. Io cito dal suo libro. L'ho letto. Io ho una vendere regola. Le case popolari agli inquilini, cedere i crediti. Io ho una regola. Io ho una regola. Prima di dare giudizi, di leggere i testi. Sì. No, questo, diciamo, questo lo leggo dal suo libro, cioè dice, lei tra le proposte è vendere le case popolari agli inquilini, cedere i crediti dello Stato, dismettere i beni, costituire e cedere società per le concessioni demaniali, privatizzare le public utilities, tutto questo serve. Ecco, certo. Le chiedo questo perché l'ex ministro Tremonti questo piano antidebito lo definisce P come Pinocchio, un patrimonio che deve essere venduto, ma non si può farlo nei tempi e nei numeri calcolati alla Carlona. Ecco, questo è il giudizio duro sul quale le chiederei un commento. Vede, è uguale alla... Non lo vedo tanto da tanto tempo, né alla Camera, e probabilmente non ha letto i testi. Tutto qua. Quindi tutto qua. Senta, dobbiamo... Molto, è molto semplice, vede, conosciamo tutti l'ex ministro Tremonti, conosciamo tutti la sua verve, la sua intelligenza, conosciamo anche tutto il fatto che si innamori delle sue idee e non accetti le idee altrui. Vuol fare una sua lista, la faccia, si presenti, prende i voti, perché è la cosa più semplice e più normale in democrazia. Finora l'hanno fatto gli altri per lui, che se lo fa direttamente penso sia la cosa più bella per lui e anche per la nostra democrazia. Senta, domani dobbiamo tifare Draghi, domani alla BCE si discute in un board, si dovrà discutere di cose importanti, anche dovrebbero illustrare i grandi banchieri come adottare eventuali acquisti di titoli obbligazionari sul mercato secondario. Dobbiamo tifare Draghi in quanto italiano oppure sono battaglie provinciali queste? Ma vede, Draghi ha assunto una linea corretta, che tra l'altro la BCE aveva già adottato un anno fa, perché la BCE ha già comprato titoli sul mercato secondario, non dimentichiamoci la famosa lettera del 5 di agosto, quegli impegni che l'Italia prese per anticipare il pareggio di bilancio, e dopo quella lettera la campagna di acquisti sul mercato secondario da parte la BCE per 223 miliardi di euro, non solo per l'Italia ma anche per gli altri paesi. E non dimentichiamoci le due A, 1000 miliardi di euro in favore delle banche con prestiti all'1%, che ahimè non hanno fatto grandi risultati. Quindi la BCE è già intervenuta. Adesso si tratta di strutturare questo intervento, dichiararlo, formalizzarlo, legarlo a dei memorandum understanding, non a lettere come quella che ci inviò il 5 di agosto dell'anno scorso. Io credo che questa sia un'operazione corretta, a una condizione, che non rimanga l'unica, perché la BCE ha il suo bazooka ed è questo. Non è proprio il massimo, perché altre banche centrali hanno bazooka più importanti, pensiamo alla Federal Reserve, ma è un bazooka utile. Ma poi ci sono i due fondi salvastati, vale a dire questa sorta di mutualità dell'Unione Europea che con soldi europei, non della banca, con soldi degli stati, intervengono anch'essi sul mercato secondario, magari sui titoli a medio-lungo termine. E non dimentichiamoci i bazooka nazionali, vale a dire quello che ogni Stato può fare per rispondere alla speculazione. E gli Stati possono fare certamente rigore di bilancio, certamente pareggio di bilancio, noi l'abbiamo messo in Costituzione, ma anche, e l'abbiamo visto, attaccare per l'Italia per esempio il debito, perché se l'Italia attaccasse il debito in maniera seria e rigorosa, con un piano come abbiamo scritto noi, quinquennale, per una cifra rilevante, con tutte le tecnicalità che potete leggere, chi vuole leggere naturalmente senza subire pregiudizi, e attaccando il debito vuol dire avere un terzo bazooka. Ecco, se questi tre bazooka, quello nazionale, quello europeo e quello della banca centrale, funzionano insieme, tutti, sparassero tutti in sincronia, con una coerenza di stabilizzazione, chiamiamola così, no, certo, le cose andrebbero meglio, molto probabilmente quei 300 punti che l'Italia ha in più di spread si scioglierebbero come neve al sole. Senta, le devo chiedere in chiusura qualche giudizio sferzante, un po' alla Brunetta, no? Su Beppe Grillo, che ne pensa di Beppe Grillo? Ma guardi, io come faccio, mi sono messo a studiare Beppe Grillo, ho pubblicato un dossier studiando il suo programma, lo statuto e come lo giudica? Del suo movimento e così via. E invito tutti i lettori ad andare sui miei siti a trovare tutto su Grillo, eccetera, eccetera. Ci sono delle cose nuove e delle cose buone. Peccato che le cose buone non siano nuove e le nuove non siano buone. Insomma, un po' bocciato. Guardi, non una grande novità. Conta poco quello che dico io, conterà quello che diranno. Ah beh, questo sì, direttore. E la cosa migliore è raccontare, vedere se lei potesse fare una bella trasmissione prendendosi lo statuto del movimento di Grillo, o il non statuto, perché loro dicono o il non statuto, difatti è chiamato così, il non statuto, la democraticità, la trasparenza, eccetera, eccetera, e poi prendesse il programma. Ecco, sarebbe una cosa punto molto per utile, punto, e lo faremo. Molti italiani potranno dire: ah, che bello! E molti altri potranno. Ma lo faremo avvicinandosi alle elezioni, lo faremo. Mi dica invece di Matteo Renzi, che adesso è più attaccato a sinistra che da destra. Mi deve una Mont Blanc. In che senso? Perché? Perché quando era presidente della provincia di Firenze, ha rubato una Mont Blanc. No, no, perché era serissima. Allora, gli chiesi allora qual era il tasso di assenteismo dei suoi dipendenti provinciali. Lui mi disse: bassissimo. Io dissi: no, guarda, che forse non è così. Assolutamente, garantisco io, bassissimo. Per telefono mi feci dare dal ministero i dati ed erano medio alti. E avevamo scommesso una Mont Blanc, se era sopra o se era sotto. Vinsi io. Ma la Mont Blanc. La Mont Blanc, niente, non è mai arrivata. Una matitina, niente di che, una matitina, e quindi mi deve una Mont Blanc per una scommessa, quindi anche matitina. Mi è simpatico, ma mi deve una Mont Blanc. E in ultima su Nicole Minetti, se vuole, ma che non si dimette, ma vede, io sono più preoccupato delle non dimissioni di Penati. E vabbè, però Nicole Minetti ha detto: mi dimetterò sicuramente, il vitalizio mai. Adesso ha cambiato idea. Io sono più preoccupato del vulnus prodotto da Penati del Partito Democratico, autorevolissimo consigliere regionale in Lombardia. Quindi Laminetti, sono molto più preoccupato e forse, come dire, l'opinione pubblica dovrebbe essere più preoccupata di queste cose che di altre. Va bene, grazie, buona giornata. Ovviamente grazie, il grande voi, imbroglio, buon se chi vuol leggere il libro di Renato Brunetta, Cronaca di un anno difficile, esce da Marsiglio oggi stesso. E allora noi ci fermiamo, tra poco, dopo la pubblicità, 800 24 00 24, Niki Vendola ha detto: voglio sposare il mio compagno, che non è una dichiarazione solo così, è una dichiarazione che è fatta davanti a Rosi Bindi alla festa del PD, rilanciando il tema dell'unione omosessuale. È chiaramente una dichiarazione che rischia di terremotare il dibattito politico e le alleanze politiche in vista delle elezioni. Mi voglio sposare, Niki Vendola, tra poco. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:37 minuti. Allora, Niki Vendola, il governatore della Puglia, ha detto alla festa del PD, del Partito Democratico, davanti a Rosi Bindi, la cattolica Rosi Bindi: voglio sposare il mio compagno. E sentiamolo intanto dalle sue parole, Niki Vendola. Non mi piaceva l'espressione pax, perché era come se c'era la cosa, ma era impacchettata dentro un nome, un acronimo un po' oscuro. Poi si è inventato un altro acronimo, IDICO. Badate, tutto fatto con grande coraggio da chi lo ha fatto, ma quel grande coraggio non contemplava la mia vita, nel senso che io non voglio stare dentro un acronimo, voglio poter dire che a 54 anni mi voglio sposare con il mio compagno. Allora, mi voglio sposare col mio compagno, una dichiarazione che rilancia il dibattito sulle unioni civili, anche tra i diritti al matrimonio tra omosessuali. Oggi sul Corriere della Sera qualche frase di Niki Vendola che dice: mi è sgorgata così dal cuore, voglio poterlo fare in Italia, non all'estero. Però il Corriere della Sera fa anche notare, come tutti i giornali, che rischia questa dichiarazione di, so, come avere l'effetto di tirare la tavola apparecchiata tra una possibile alleanza tra PD e SEL, perché il tema è molto delicato. Ne parliamo con Ivan Scalfarotto, che è vicepresidente del Partito Democratico. Buongiorno Scalfarotto. Buongiorno a voi. Saluto anche Carlo Casini. Carlo Casini, eurodeputato, buongiorno e ben ritrovato dell'UDC. Sì. Buongiorno Casini. Buongiorno a tutti. Bene. Tra l'altro, nella sua carriera anche fondatore del Movimento per la Vita. Carlo Casini, partirei da lei, so che ne abbiamo già parlato, lei ha una posizione molto intransigente sul tema matrimoni omosessuali, cioè un rigoroso no. Perché questo rigoroso no e che ne pensa di Vendola? Il mio no è rigoroso, ma non integralista, è secondo me un no di ragione. Ho scritto un libro sull'argomento, quindi a quello rimando, unione di fatto, matrimonio, figli, ed è un no di ragione perché distingue lo spazio privato della libertà da garantire per tutti, compreso ovviamente le persone omosessuali, e lo spazio del pubblico dove si tratta di perseguire, di incoraggiare, di sostenere il bene comune, l'interesse pubblico. Ora, nessuno, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che è un atto certamente laico, dice che la famiglia è il fondamento della società e dello Stato. E l'articolo 29 della nostra Costituzione dice che il matrimonio e i diritti della famiglia si fondano sul matrimonio. La famiglia repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Quindi il matrimonio è il fondamento del fondamento. Ma si può dire la stessa cosa di qualsiasi compagnia? Ma cioè, il fatto di vivere insieme è fondamento dello Stato. Però il matrimonio è il fondamento, ma il matrimonio è tra uomo e donna, questo non è scritto. Questo... No, ma la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la famiglia è fondamento. Vogliamo razionalmente domandarci perché è la compagnia come tale il fondamento? Allora, due persone, lasciamo stare il letto, due persone che vivono insieme, o tre persone, o quattro persone che vivono insieme per ragioni anche altruistiche, anche di generosità, può essere un'associazione a delinquere, ma può essere un'associazione che vuole aiutare il terzo mondo, può essere il vivere insieme di scienziati che vogliono, come è successo nella storia, che vogliono scoprire insieme qualche prodotto utile all'umanità. Bene, è fondamento della società, si deve garantire la libertà, è ovvio, ma non si può dire che sia fondamento. La famiglia è fondamento per la questione della generazione. La generazione. E questo è il punto fondamentale. Non è che dobbiamo essere contro le persone omosessuali, ma dobbiamo, loro dobbiamo certo garantire la libertà che già hanno. Ma perché la, perché la generazione è fondamentale? Dovremmo essere contro anche le coppie sterili, allora non è una famiglia, con accertata sterilità, non sono una famiglia? Beh, intanto diciamo che l'interesse pubblico a che ci siano dei figli è evidente. Senza figli la società finisce, questo sarebbe l'ultimo, la nostra vita sarebbe l'ultima nella storia, la storia finirebbe nell'assurdo, e poi è risaputo ed è come dire, la famiglia non soltanto come genera, ma in quanto differenza sessuale tra uomo e donna, ma è anche capace di educare buoni cittadini, almeno questo è il giudizio che nasce dalla storia, dall'esperienza. Cioè, voglio dire, questa è la valutazione di sostegno al matrimonio come a queste tesi. No, ma è chiaro. È chiaro che questo crea anche un dibattito politico, e su questo vorrei da Ivan Scalfarotto intanto un commento, sia un commento se vuole Scalfarotto in replica a Carlo Casini, ma anche io vorrei partire anche dal tema alleanza. Quanto rischia di terremotare questa possibile alleanza quello che ha detto Nichi Vendola? Sì, ma mi lasci dire che la concezione zootecnica della famiglia dell'onorevole Casini a me lascia sempre abbastanza, come dire, stupefatto, cioè il fatto che la famiglia si risolva nella generazione, quindi nell'unione tra uno spermatozoo e un ovulo, questo sarebbe ciò che fa la famiglia. L'onorevole Casini dovrebbe sapere benissimo che ciò che fa una famiglia è un progetto di vita, è un affetto reciproco, è il sostenersi vicendevolmente, è l'essere la persona, è il condividere i momenti di gioia, e le assicuro, onorevole Casini, questo succede tanto nelle famiglie con figli, che nelle famiglie senza figli, che nelle famiglie omosessuali, e quindi, come dire, secondo me è una visione della famiglia veramente molto mortificante per le famiglie italiane, per le famiglie di ogni altro paese, e questo dimostra per quale motivo in così tanti paesi del mondo si è preso finalmente atto di questo e si sono introdotte delle leggi sul matrimonio gay. Peraltro la Costituzione di cui parla l'onorevole Casini, peraltro non rispondendo alla sua domanda, appunto parla di famiglia, non dice che il matrimonio è fatto tra un uomo e una donna. E così come la Costituzione non parla di internet, questo Casini lo dà, diciamo, lì interviene l'elemento per lui dirimente della generazione, che chiaramente fa capire che la generazione si può avere solo tra un uomo e una donna. La Costituzione non parla di internet, non parla della televisione, non parla di talmente tante cose. Quando parliamo di libertà di stampa, i costituenti non avevano certamente in mente la TV, non avevano, figuriamoci, internet. Cioè, i tempi cambiano, lei vuol dire, non è che Per fortuna la Costituzione è giustamente che è un documento bellissimo, va guardato in un'ottica evolutiva, perché altrimenti dovremmo cambiarlo ogni 10 anni, e quindi è chiaro che il concetto di famiglia di oggi non è più quello del 48, ed è chiaro perché l'omosessualità prima era una cosa di cui vergognarsi, e quindi gli omosessuali esistevano comunque, oggi per fortuna non lo è più, e quindi sono cittadini come gli altri che pagano le tasse ed evidentemente hanno diritto ad avere gli stessi medesimi diritti. Ma invece politicamente Vendola perché l'ha fatto? Secondo lei gli è sgorgata dal il cuore, come ha detto? Io non ci credo, perché davanti a Rosi Bindi, che sappiamo che posizione ha, alla festa del Partito Democratico in vista di un'alleanza, uno non dice una cosa così sgorgata dal cuore, dai. Ma guardi, Vendola lo dice a 54 anni e dice finalmente voglio dirlo. Vendola fa politica da 30 anni e non ha mai detto questo in pubblico, per cui benvenuto nel club, diciamo, non è l'unico che si vorrebbe sposare, e penso che una componente umana ci sia, perché vivere diciamo una propria condizione personale per così tanti anni, tra l'altro considerata come un elemento sempre di valutazione, perché nessuno dice che so io Pier Ferdinando Casini eterosessuale continuamente, mentre invece quando si parla di una persona gay o lesbica, virgola lesbica, virgola gay, quindi questa è una cosa che ti porti dietro per tanto tempo. Io non escludo che una parte diciamo così intimista sia venuta fuori. C'è venuta fuori dal punto di vista politico, guardi, le dico molto semplicemente, Hollande ha vinto le elezioni pochi mesi fa col sostegno del Partito Democratico e di tutta la sinistra europea, e ci ha messo 5 minuti a dire facciamo la legge sul matrimonio. Allora, nel Partito Democratico c'è gente che la pensa diversa. Sa che ha detto Fioroni, non me fate parlare di omosessuali, quando l'hanno chiamata al Fatto Fioroni Quotidiano. Fioroni ieri era a presentare il libro di Paola Concia alla festa del Partito Democratico. Ho capito, quindi ha parlato di omosessualità almeno per 2 ore. Ma comunque il tema è che, guardi, Bersani ha detto: noi faremo le unioni civili alla tedesca, che sono un istituto praticamente identico al matrimonio, salvo il nome. Da quando Bersani ha detto questo, ci sono state aperture di Casini, di Carra, addirittura Maurizio Lupi al meeting ha detto gli omosessuali devono avere dei diritti. Quindi questo significa anche che quando si tiene una, come dire, la barra dritta, poi alla fine le cose qualcosa si ottiene. Mi faccio dare le informazioni sul traffico, che poi riparto da qui. Vorrei fare ripartiremo anche da un audio di Niki Vendola che dice: siamo a livello di diritti come una civiltà islamica da questo punto di vista. Tra poco. Allora, Niki Vendola che dice: non voglio le unioni, dico i pax, voglio potermi sposare, voglio unirmi in matrimonio con il mio compagno, dunque a dire matrimoni omosessuali, e voglio farlo in Italia. Carlo Casini, le faccio sentire cosa ha detto Vendola ancora, anche a lei Scalfarotto ovviamente. Sentiamo Vendola. È con questa logica che noi nel 2012 siamo ancora in una repubblica che ha standard dei diritti civili da repubblica islamica, proprio perché abbiamo rinunciato, per cattivo realismo, per soggezione nei confronti della Chiesa, a fare una battaglia politica e culturale esplicita. Allora, Casini, siamo in standard di diritti civili da repubblica islamica, secondo Niki Vendola, anche per colpa della Chiesa. Dire questo è veramente essere integralisti. Ma io pongo agli ascoltatori, prima ancora che a Scalfarotti, a lei, ma la domanda: ma insomma, il valore che rende pubblico, di significato pubblico, di interesse pubblico, una compagnia, e ce ne sono tante di compagnie, c'è la compagnia di persone che vivono insieme, che sono fratelli e sorelle, zio e nipote, vi lascio finire perché è importante la domanda, ci sono le compagnie persino di carattere religioso, pensa ai conventi, le fraternità di vario genere, che cos'è che rende la compagnia di interesse pubblico? L'amore, onorevole Casini, ha mai sentito parlare di questa parola? Dice l'amore, le dice Scalfarotto, l'amore, l'armonia, la voglia di stare insieme. La cosa veramente che lascia stupefatti è che un cattolico che dovrebbe avere l'amore sempre sulla punta delle labbra, poi se ne dimentica. Allora, è l'amore, il progetto di vita, onorevole Casini, perché due persone omosessuali che vivono insieme e hanno un progetto di vita insieme sono perciò stessi di rilevanza pubblica, l'ho detto la Corte Costituzionale. Però forse l'onorevole Casini, aspetti, concluda, vuol dire che cosa è di maggiore, cioè la rilevanza pubblica numero uno, secondo lei, Casini, qual è? È la dimensione sessuale, quella che è indispensabile perché ci sia solidarietà, affetto, amore, bisogno di reciproco di sostegno. Ci sono tante altre cose. No, certo, questo no. La differenziazione sessuale uomo-donna è iscritta nel corpo, lo sanno tutti i nostri ascoltatori che è così. Ma perché questa, ma perché le fa, perché lei ne fa? No, certo, ma perché lei la mette come elemento numero uno di rilevanza pubblica, il fatto che la generazione, il fatto di poter generare sia, debba essere questo il metro di giudizio per giudicare un'unione di qualsiasi tipo come rilevanza pubblica superiore rispetto a qualsiasi altro tipo? Perché? No, peggiore, io ho detto che la rilevanza pubblica dell'unione tra l'uomo e la donna è la potenzialità generativa ed educatrice. Cioè lei riduce a questo l'elemento numero uno da cui partire. L'interesse pubblico è in questo senso. L'interesse per pubblico. Il resto lo Stato garantisce la libertà, punto. Ma perché l'interesse pubblico dovrebbe essere quello soprattutto della generazione? Se non ci sono i figli, se non ci sono i figli, non c'è futuro. È molto semplice. Non è che c'è da dire, lo capiscono tutti. Senza figli non c'è futuro. E questo, quindi, Scalfarotto, è dirimente, è una questione, torniamo al punto di partenza, Scalfarotto. Cioè, questo per Casini è il punto dirimente. Immagino. Una coppia omosessuale non può procreare, e quindi perciò stessa non può assurgere a livello di rilevanza pubblica come una coppia uomo-donna. Mi immagino le coppie eterosessuali senza figlie che sono all'ascolto, che saranno umiliate dalle parole spietate dell'onorevole Casini, al quale dico che è appunto l'amore quello che conta, e anche la sessualità, perché la sessualità è naturalmente parte dell'amore, però la sessualità umana non è fatta soltanto per la generazione, onorevole Casini, perché quello ha a che fare con le giumente, con le vacche e con altri animali da riproduzione, rispetto alla quale situazione l'essere umano per fortuna si è evoluto, se noi ascoltassimo l'onorevole Casini e la sua concezione della società, che è arcaica e evidentemente superata dai fatti, dovremmo avere ancora la donna non avere la potestà dei figli che partorisce, perché così era appunto la famiglia tradizionale prima della riforma del diritto di famiglia, l'idea che la donna fosse una fattrice. Allora, onorevole Casini, guardi, il mondo è cambiato, non è più così, se ne sono accorti tutti gli stati che confinano con l'Italia, e per questo che vendo la ragione quando parla di Repubblica Islamica, perché se lei andasse a guardare qual è la situazione legislativa in tutti i paesi che noi consideriamo civili, questi temi sono stati risolti in modo laico, sereno, inclusivo e rispettoso dei cittadini. Quello che dice l'onorevole Casini è deprimente, perché indica, dà un'idea della società non soltanto superata, ma è anche veramente poco rispettosa del ruolo che uomini e donne hanno all'interno della società, che non si limita a riprodursi, ma a essere parte attiva, e armonica e ricca, sì, di una società fatta di persone che ragionano prima col loro cervello e poi con le loro vaie e con i loro testicoli. Sentiamo all'800 24 00 24, ci sono tante chiamate, vorrei sentire Alberto da Milano. Buongiorno Alberto. Buongiorno dottor, sì, Milan, grazie per il... Dica. Per ascoltare la mia esperienza. Io, l'argomento è estremamente vasto, per cui io porto la mia esperienza e poi termino con una domanda a lei e ai suoi ospiti. Sì. Io e mia moglie abbiamo avuto una bambina un anno fa a Milano, però noi siamo a Milano in prestito perché veniamo entrambi da fuori, quindi non abbiamo alcun aiuto come famiglia allargata, nonni. Sì, sì. Ora, nostra figlia ha iniziato ad andare all'asilo a febbraio privatamente, al costo di circa 600 euro al mese, di cui... sia sintetico, cioè vuole arrivare al punto a dire che non avete aiuti materiali da parte di nessuno. Il punto è che se l'onorevole Casini pone la questione del fatto che lo Stato ha interesse alle famiglie che procreano, sì, questo aiuto, questo interesse non ha nessun supporto, perché io ho recuperato 15 euro al mese. Questo è il punto, quindi dice, se fosse, cioè se è così, se è davvero così, Carlo Casini, si dovrebbero fare delle politiche forti di sostegno poi a chi genera. Ecco, uso un termine, un verbo che a lei piace molto. E Alberto dice, in realtà poi non è così. E allora va a crollare un po' tutta questa teoria. Casini. Sì, pronto? Sì. Alberto dice, sì, no, beh, questa è la teoria, no, però poi in concreto il dato di fatto è che chi fa figli si trova in difficoltà. Sì, il nostro interlocutore ha ragione, bisogna fare delle politiche serie per la famiglia, ed è, noi insistiamo da un pezzo, insistiamo per il quoziente familiare, insistiamo per il sostegno al lavoro domestico, che sia retribuito come quello extradomestico, insistiamo perché ci sia una politica di educazione alla famiglia, ha voglia, se diciamo queste cose, una politica lavorativa a favore della donna, certo, ma non si può nemmeno dire che non ci sia nulla, non è vero. Io sono al Parlamento Europeo e vedo il confronto continuo riguardo alla maternità fra il nostro Stato e gli altri Stati. Sì. Non è vero che l'Italia sia all'ultimo posto, la Francia è avanti per quanto riguarda gli aspetti economici, le allocazioni familiari, ma per altre cose non è sempre così. Quindi senta, è chiaro che ci vogliono politiche su questo. Però le chiederei questo, onorevole Casini, ovviamente lei è contrario già vieppiù alle adozioni anche per le coppie omosessuali, perché sa il problema della generazione, voglio seguire questo suo discorso anche se Scalfarotto lo segue, lo dice folle, i due omosessuali possono crescere un figlio, una figlia che poi procreeranno una volta che saranno adulti. Guardi, questo problema dell'adozione è diverso. Intanto le domande di adozione in tutto il mondo occidentale, in Italia in modo particolare, sono numerosissime. E diciamo una coppia su 10 riesce ad avere un figlio, perché non nascono bambini, e questo è un altro problema che tutto, non voglio affrontare adesso il tema del diritto alla vita, eccetera. Ma come non nascono bambini? Ma allora, siamo un pianeta che scoppia in termini demografici, non nascono bambini. No, è il contrario. Ma guardi, questo lo dicono tutti gli studi. Forse non solo. Stiamo crescendo in termini demografici, forse non ci sono un numero di bambini che vengono dati in adozione, questo è un bene, vuol dire che stanno nella famiglia. I bambini però non ci sono perché non nascano, perché non li facciamo nascere per mille ragioni, l'aborto per esempio, ma ora non voglio affrontare questo problema. Ma voglio dire, è sicuro che ci sono una grande quantità di famiglie che aspettano un figlio. Andare a la legge già dice che si può fare adozione a favore di una persona sola se quel bambino non lo vuole nessuno, ma questo non succede, non esiste. Vabbè, però faccia così, però ho introdotto un argomento troppo ampio al termine, quindi la colpa è mia, me ne assumo la responsabilità, ma torneremo magari a chiamarvi, fare un altro dibattito su questo tema, ringraziando molto Ivan Scalfarotto, vicepresidente del Partito Democratico, e Carlo Casini, eurodeputato dell'UDC. Ci fermiamo qui, ricordatevi che iniziamo alle 6.30, dovete svegliarvi, puntare la sveglia, no, se no potete riascoltare il podcast su radio24.it e seguiteci su Twitter @24mattino. A domani.